Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Stati Uniti, Trump a ruota libera, Israele, le bandiere nere, Libia, terra di tutti, terra di nessuno. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. شيوخ ووجهاء القبائل سواء كان في المنطقة الغربية عندنا في مصر أو في المنطقة الشرقية أو في كامل ليبيا. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, 16.09 minuti in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, oggi in assistenza Luca Cremonese e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti sui temi che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, ve lo preannuncio, piuttosto ricca, tanti temi che vi sottoporremo. E naturalmente i commenti e le domande le potete fare anche attraverso i social, qui sott'occhio alla pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e tengo d'occhio anche Twitter. I due account sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale, che è Giampaz. Allora, innanzitutto parleremo delle bandiere nere in Israele, questo movimento di piazza nato piuttosto spontaneamente, sostanzialmente apartitico, ma che tuona contro Bibi Netanyahu e le accuse di corruzione che pendono sul suo capo. Che piega sta prendendo? Innanzitutto una strettamente di ordine pubblico, 50 arresti a Gerusalemme. Cercheremo di capire quali sono le ambizioni di questo movimento. Poi la recente, l'ultima conferenza stampa di Donald Trump, in cui ha lanciato strali un po' ovunque, non poteva mancare naturalmente il numero uno Joe Biden. Ha così tanto attaccato Joe Biden in termini quantitativi e di tempo che a un certo punto la CNN, fra gli altri, ha sostanzialmente sospeso il collegamento della conferenza stampa, ritenuta un vero e proprio comizio elettorale. E infine, terza pagina, tutta dedicata alla Libia. Perché? Perché il Financial Times ha pubblicato una inchiesta pregevolissima, durata parecchi anni, che getta ombre davvero inquietanti sul coinvolgimento russo, non che la cosa fosse nota, ma, come dire, li racchiude, li racconta in salsa economico-finanziaria militare. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666 per voi, mentre noi sfogliamo i nostri dossier. I dossier internazionali sui quali stiamo lavorando qui, tutta la squadra in Nessun Luogo è Lontano, tiene d'occhio innanzitutto la Turchia, perché sono passati esattamente 4 anni da quella notte, era il 15-16 luglio del 2016, quando una parte delle forze armate e di sicurezza turche misero in atto quello che da alcuni è stato bollato come l'autogolpe, il colpo di Stato in Turchia. L'idea era di rovesciare il regime di Erdogan. Il tentativo di colpo di Stato provocò la morte di circa 250 persone, 2000 feriti. I numeri però più eclatanti arrivano dalla repressione che è arrivata nel post colpo di Stato. 100.000 persone arrestate, 150.000 epurate dalle pubbliche amministrazioni, oltre a una serie infinita di docenti universitari allontanati e giornalisti che sono finiti dietro le sbarre. La Turchia, è utile ricordarlo, è al momento, esclusa la Cina, probabilmente uno dei paesi che ospita il maggior numero di colleghi dietro le sbarre. La stretta di Erdogan si è fatta sentire anche in questo senso. E mentre il regime di Erdogan pesta duro sulla libertà di espressione, allo stesso tempo quest'oggi celebrerà quell'evento. E lo celebra da un lato con una serie di appunto celebrazioni vere e proprie, liturgie che vanno a consacrare ulteriormente il potere del sultano. Qua cito sempre l'Economist, metto le mani avanti. Allo stesso tempo non poteva mancare un'ennesima stretta, con una serie di arresti di della cerchia di Fethullah Gülen, lo ricorderete, predicatore, ex alleato di Erdogan, che ormai è in esilio negli Stati Uniti da decenni, che è considerato da Erdogan l'ispiratore di quel colpo di Stato del 2016. Dicevo, ennesimo giro di vite sugli accoliti di Gülen o gli affiliati a questa presunta congiura, 60 mandati di cattura nei confronti di sospetti affiliati. Ricordo che nel 2020 sono state arrestate 1900 persone legate in qualche modo alla rete di Gülen. Secondo quanto riferisce la TV di Stato e la TRT, per la giornata di oggi sono previste celebrazioni pubbliche, discorsi ufficiali, compresi quelli appunto del presidente Erdogan, mentre le moschee e i loro muezzin lanceranno un invito speciale alla preghiera per ricordare appunto quella notte fra il 15 e il 16 luglio in cui per qualche ora e forse per un attimo il regime di Erdogan vacillò. Secondo dossier degno di nota ci arriva dalla Bielorussia, perché ieri sera centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro l'esclusione dalla prossima tornata elettorale di due candidati dell'opposizione. Allora, il 9 agosto prossimo si terranno le elezioni presidenziali in un paese particolarmente impermeabile non soltanto all'informazione ma anche alle influenze dell'Occidente. Cosa è accaduto? Vi sono state varie proteste nella capitale Minsk ma anche in altri centri minori, con parecchi arresti, 250 secondo le fonti ufficiali, ma secondo le organizzazioni per i diritti umani almeno 300, compresi scontri fra manifestanti e polizia, il detonatore che ha fatto esplodere le proteste, l'esclusione dalla prossima tornata elettorale di Viktor Babariko, che è considerato il principale sfidante a Lukashenko, che ricordiamo governa la Bielorussia ininterrottamente dal 1994. Le accuse per estromettere dalla corsa elettorale Babariko, pretestuosamente secondo evidentemente l'opposizione, sarebbero il presunto possesso di beni non dichiarati in conti offshore. E poi resta alta, molto alta ed è preoccupante la tensione lungo il confine tra Armenia e Azerbaigian. Si è riacceso lo scontro tra i due paesi, lo stiamo raccontando da alcuni giorni e qui a Nessun Luogo Lontano non escludo uno speciale proprio in questo senso per raccontare quella che è una ferita mai rimarginata. Secondo le fonti ufficiali, negli ultimi tre giorni vi sono stati almeno 16 morti, fra cui anche altri ufficiali da una parte e dall'altra. Nell'ultima notte appena trascorsa, migliaia di cittadini dell'Azerbaigian si sono radunati davanti all'edificio dell'Assemblea Nazionale a Baku per protestare contro l'occupazione del Nagorno-Karabakh da parte dell'Armenia. Inoltre, i manifestanti hanno chiesto al governo di poter essere mobilitati, imbracciare le armi e poter andare al fronte. Nagorno-Karabakh, per molti una regione molto lontana, molto distante, poco raccontata, in effetti lo è, se non fosse che Yerevan e Baku si contendono da decenni il controllo su quella stessa regione. C'è stata combattuta una guerra lunghissima, 6 anni, 30.000 persone morte, una fragile trega siglata nel 1934 ha sostanzialmente congelato il Nagorno Karabakh, che però continua a subire e a vivere un conflitto latente che ogni tanto si riaccende. Questi sono i nostri dossier internazionali, ovvero fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, sui quali stiamo lavorando e che presto diventeranno, prenderanno corpo, diventeranno puntate di Nessun Luogo è Lontano. Ma adesso con Valeria Bernardi, come promesso, andiamo in Israele. Intanto arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, c'è qualcuno che da un lato commenta, dall'altro chiede lumi sulla situazione statunitense, ci andremo tra pochissimo. Non prima di avervi dato conto di quello che è accaduto ieri sera, in particolare a Gerusalemme. Alcune migliaia di dimostranti e appartenenti a questo movimento, che è nuovo e vi stiamo raccontando da poche settimane, le bandiere nere, dicevo, si sono raccolti a Gerusalemme attorno alla residenza del premier Benjamin Netanyahu. Vi sono stati scontri, forse per la prima volta le bandiere nere hanno mostrato il lato più violento, non scontri particolarmente gravi, però vi sono stati anche attacchi verbali contro alcuni giornalisti in particolare appartenenti al canale 13, Channel 13, che è ritenuto molto vicino al Likud, il partito di Benjamin Netanyahu. Addirittura hanno tentato di strappare di mano il microfono ai cronisti che stavano registrando quella protesta. Il capo dello Stato, Rivlin, si è detto allarmato di fronte a queste scene, ha detto: non possiamo far finta di nulla di fronte a episodi del genere, nessuno deve sentirsi minacciato per le proprie posizioni politiche, sia esso un comune cittadino, il primo ministro, un ministro, un deputato o appunto un giornalista. E così, ad alcune ore dopo quella manifestazione piuttosto imponente ed eclatante allo stesso tempo, la polizia ha comunicato che sono 50 i manifestanti arrestati a Gerusalemme. Accuse: pubblico disturbo, atti di vandalismo, attacco agli agenti e alla stampa. Per 8 degli arrestati sarà chiesto il prolungamento dello stato di detenzione, mentre gli altri saranno rilasciati. Intanto, contemporaneamente e parallelamente, a Tel Aviv si è svolta, stavolta senza incidenti, e sul litorale, con partecipazione di artisti e cantanti, un altro sit-in, un'altra manifestazione sempre delle bandiere nere. Il tutto sostanzialmente avveniva il 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia, tanto che la manifestazione di ieri è stata ribattezzata dagli stessi organizzatori Bibi Bastiglia. Andrea Macchioni ha raggiunto Shikma Schwarzman, che è una delle leader del movimento delle bandiere nere. In realtà fa tutt'altro, lei sta abbracciando questa carriera politica, diciamo, di manifestante, ma in realtà è fisica delle particelle al Weizmann Institute of Science, è membro della collaborazione Atlas al CERN. Perché battezzare questa manifestazione col nome di Bibi Bastiglia e perché proprio il 14 luglio? C'è una ragione particolare, ve lo faccio dire proprio da lei. We went out to the streets in the Bastiglia Day, which we called Bibi Bastiglia Day, in the name of brotherhood. La Schwarzman dice: abbiamo ribattezzato le manifestazioni di ieri Bibi Bastiglia in nome della fratellanza, siamo scesi in piazza nel giorno delle celebrazioni per la presa della Bastiglia perché la situazione in Israele è estremamente grave a causa del coronavirus e della relativa crisi economica. Netanyahu non è riuscito a gestire l'emergenza del Covid-19 perché è concentrato a evitare il processo, di conseguenza la gente in Israele è in una situazione terribile sia economica sia sanitaria. Out of work, out of future, lost everything that they have. So we had nothing to do but going out to the street. La voce, il commento di Shikma Schwarzman, una delle leader di questo neonato movimento delle bandiere nere, che fa dello scontro a muso duro contro Bibi Netanyahu, premier ad interim, dovrebbe dire, perché è prevista una rotazione con Benny Gantz in Israele, la sua bandiera principale. Molte persone hanno preso parte alle manifestazioni di ieri, alcune migliaia, prima a Gerusalemme, poi a Tel Aviv, ma per la prima volta questo movimento assolutamente pacifico ha mostrato segnali di intolleranza, lo ha fatto con aggressione alla polizia, lo ha fatto anche aggredendo verbalmente, cercando di ostacolare il lavoro di alcune troupe televisive. Che tipo di posizione ha preso il movimento, se lo ha fatto rispetto a questi eventi? Sentite ancora la Schwarzman. The Black Flag Movement from the beginning was always against any act of violence. E come sentite, la leader dice fin dall'inizio che questo movimento è sempre stato contro ogni atto di violenza. Vogliamo sottolineare il fatto che molti dei manifestanti di ieri erano nuovi alle proteste, giovani che sono scesi in strada perché davvero non hanno più un futuro in Israele. Questo sta accadendo a causa del completo fallimento di Netanyahu nel gestire l'emergenza. Questi giovani hanno perso il lavoro, il futuro, quindi capisco la rabbia delle persone che sono scese nelle strade a manifestare. Tuttavia, il movimento delle bandiere nere è contro ogni atto di violenza. Allo stesso tempo, capiamo il dolore della gente. In tutto ciò, rimane sullo sfondo, ma è sempre un tema particolarmente sensibile ed è un vero e proprio vulnus nelle relazioni tra israeliani e palestinesi, il progetto di annessione, lo sapete, proposto da Benjamin Netanyahu, proposto in parte anche da Donald Trump con quel grande piano di pace per il Medio Oriente, rigettato al mittente da parte non soltanto dei palestinesi ma anche da parte di alcuni vicini con un peso specifico piuttosto consistente, la Giordania innanzitutto, il cui re ha detto attenzione perché l'annessione diventa un atto bellicoso a tutti gli effetti. Ecco, all'interno del movimento delle bandiere nere, qual è la posizione rispetto alla potenziale annessione? Lo ricordiamo, un 30% dei territori della Cisgiordania. Sentite ancora la leader. With regards to an extension plan presented by Netanyahu, we do see the direct connection between his failure to deal with the coronavirus conditions and his Riguardo al piano di annessione della Cisgiordania presentato da Netanyahu, ha detto Schwarzman al microfono di Andrea Macchioni, osserviamo il collegamento diretto tra il suo fallimento nella gestione della crisi coronavirus e la continuazione del suo processo, che è previsto per domenica. Fino a quando vedremo questa connessione sarà molto difficile per le persone in Israele fidarsi delle decisioni di Netanyahu. Noi ci troviamo nel bel mezzo di una crisi di leadership estremamente profonda, perché la maggior parte degli israeliani non crede nemmeno a una parola del primo ministro, quindi qualsiasi piano di annessione non sarà accettato facilmente. We do see the direct connection between his 349-238-6666, dalla voce di Shirma Schwarzman, leader del movimento delle bandiere nere, ci ha appena raccontato da Gerusalemme che cosa è accaduto e quali sono le posizioni di questo neonato movimento. Alla vostra voce che arriva sotto forma di SMS e di WhatsApp. Scegliere una bandiera nera non mi pare proprio un simbolo di pace, lo stesso colore dell'ISIS, se non erro, così Roberto, da questo punto di vista assolutamente ineccepibile. Claudia, sono tornata a Israele il 1 luglio dopo avervi trascorso lavorando circa 5 mesi, non ho visto tutta questa crisi di cui parla la signora, così una ascoltatrice che racconta la propria esperienza. Altri messaggi al 349-238-6666, tornano alla questione della Basilica di Santa Sofia riconvertita in moschea, ci torneremo perché quell'atto particolarmente simbolico è stato per Erdogan un atto importante che desiderava da tempo ed è, come dire, la continuazione di questo processo di islamizzazione che il sultano, sempre citazione dell'Economist, sta portando avanti. Ci torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso però, con Valeria Bernardi, vi porto negli Stati Uniti. Poche ore fa il presidente statunitense Donald Trump ha fatto una lunghissima conferenza stampa. All'inizio ha parlato di relazioni con Hong Kong, con la Cina, poi però ha iniziato ad attaccare Joe Biden. Mostrato questo aspetto, questo lungo comizio elettorale, motivo di stizza per alcuni network, tra cui la CNN, che hanno poi deciso di sospendere il collegamento. Valeria Bernardi è andata a risentirsi un po' la conferenza stampa. Cosa mi proponi? Cosa mi metti sul piatto? Sentiamo. Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Oggi ho firmato un ordine esecutivo che mette fine al trattamento privilegiato di Hong Kong da parte degli Stati Uniti. D'ora in poi Hong Kong verrà trattata alla stregua del resto della Cina. Stop ai privilegi speciali. Basta trattamenti economici particolari e fine dell'export di tecnologie sensibili. No special privileges, no special economic treatment. And no export of sensitive technologies. Questa è una delle dichiarazioni di Donald Trump. Tra poco chiederò al mio ospite un commento su questo. Però prima vi facciamo sentire ancora su chi ha tuonato. Joe Biden, è ovvio, no? In other words, he wants to impose the Green New Deal on. Joe Biden vuole imporre il Green New Deal al nostro paese. Quando ho letto il programma credevo fosse uno scherzo. Non si andrà da nessuna parte con questo Green New Deal che vogliono imporre. Distruggerà il nostro paese, rendendoci non competitivi. Nel frattempo si è fatta sentire l'amministrazione di Pechino in riferimento a quel nuovo atto che ha firmato il presidente statunitense Donald Trump. Oggi il Ministero degli Esteri cinese ha affermato che, aperte virgolette, la Cina si oppone fermamente e condanna l'Hong Kong Autonomy Act, approvato all'unanimità del Congresso degli Stati Uniti all'inizio di questo mese. Il provvedimento applica sanzioni contro individui e banche che abbiano rapporti con funzionari cinesi. La Cina fornirà le risposte necessarie per proteggere i suoi interessi legittimi e imporrà sanzioni al personale e alle entità statunitensi, ha aggiunto il ministero. Il punto, la sensazione che si ha osservando dal nostro punto di osservazione, un po' al centro se volete, in questo braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina in mezzo ci sta Hong Kong, e che questo braccio di ferro, dicevo, non potrebbe non portare nulla di buono a nessuno dei contendenti. Gli analisti infatti affermano che porre fine al trattamento speciale di Hong Kong potrebbe rivelarsi un tremendo, clamoroso autogol anche per gli Stati Uniti. Hong Kong è infatti la fonte del più grande surplus commerciale bilaterale di merci degli Stati Uniti stessi, 26.1 miliardi di dollari. Secondo il Dipartimento di Stato americano, 85.000 cittadini statunitensi vivevano a Hong Kong nel 2018 e più di 1.300 società statunitensi operano in città, tra cui quasi tutte le principali società finanziarie statunitensi. Poi d'altra parte è anche vero che Pechino sta pestando duro e molti, anche giornalisti, temono ritorsioni da parte di Pechino stesso. Il New York Times, per esempio, ha ritirato il 30% del suo staff che lavora a Hong Kong. Il che vuol dire, vi ricordate quella legge speciale sulla sicurezza che consente sostanzialmente un'estradizione molto facile e per generici attacchi alla sicurezza nazionale permette alla longa manus di Pechino di arrivare in territorio hongkongese? Ecco, pensate a che anche i giornalisti del New York Times non si sentono più particolarmente sicuri nel svolgere il proprio lavoro in quella che era l'ex colonia britannica. Direi, facciamo una piccola pausa, digeriamo un po' tutta questa carne al fuoco, l'informazione finanziaria, e poi continuiamo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta. Nessun luogo è lontano. So there's never been a time when two candidates were so different. I mean, I've non è mai successo nella storia delle elezioni americane che due candidati fossero così diversi. Spesso democratici e repubblicani si assomigliano molto nel programma e spesso si sceglie un candidato rispetto all'altro semplicemente in base all'aspetto o al modo in cui parla. Oggi c'è invece una grande differenza. Se volete legge e ordine, io sono il candidato giusto. Questo è uno dei passaggi della lunga conferenza stampa di poche ore fa di Donald Trump. Intanto buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Mario Secchi, direttore di Agi. Direttore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la domanda che ti farei è come sta andando Donald Trump. Nell'ultima conferenza stampa si è dilungato parecchio, ha lanciato strali su tanti quadranti, per così dire. Da un lato sanzioni Hong Kong-Cina, che potrebbe essere un autogol per gli stessi Stati Uniti, e poi però si è messo di buzzo buono a attaccare Joe Biden. Che tipo di segnale vedi nel Trump delle ultime settimane? I sondaggi lo danno in svantaggio, lui però passa al contrattacco appena può. Come lo vedi? Beh, intanto se si dovesse votare oggi, Trump perde. Naturalmente non si vota oggi, si vota il 3 novembre, e quindi qualsiasi ragionamento, diciamo, a bocce ferme adesso rischia di essere fuorviante, nel senso che Trump ha di fronte una tempesta perfetta: crisi sanitaria del coronavirus, la crisi innescata dal lockdown e dalla rottura del meccanismo della domanda e dell'offerta, diciamo così, sì. E naturalmente l'interruzione della produzione e della catena globale del valore. E poi abbiamo una crisi sociale non nuova, cioè la riemergere della questione razziale, e se metti queste tre cose insieme nessun presidente sarebbe ancora in piedi in questo momento. Trump lo è, nel senso che Biden è in vantaggio, ma questo vantaggio nazionale poi deve fare i conti con l'Electoral College, col sistema del voto americano e con le roccaforti rosse. Sì. La campagna di Trump è tutta basata in realtà sul fatto che poi alla fine decide tutto in ottobre, sostanzialmente, o quasi, a meno che il distacco non diventi incolmabile adesso, sì. cosa che non è allo stato attuale. E dunque lui sta cercando, come dire, di scollinare questo momento difficile, di puntare sulla questione dell'identità americana contrapposta a quella della cancel culture, dei movimenti, sì, dei nuovi iconoclasti e così via, riprenderà quota, vedrai, il tema dell'immigrazione, sì, naturalmente, che è sempre un mantra della politica trumpiana, e dopodiché c'è sempre diciamo sullo sfondo la questione economica, cioè se la ripresa sarà forte o meno nelle prossime settimane. Ci sono dei segnali buoni, naturalmente, però offuscati dal fatto che il virus circola in America con grande intensità e molti piani di riapertura sono stati rinviati. Sì. Segnalo però che nei giorni scorsi è uscito sulla CNN, quindi su uno degli organi di informazione più ostili a Trump, un articolo molto interessante di due strateghi democratici che hanno fatto le campagne per i democratici, che dicevano la seguente cosa: Biden è debole, non somma altre forze a quelle che già aveva, neanche quelle dei movimenti, e Trump in realtà dove conta o è capace di recuperare o è in vantaggio. Quindi la partita, diciamo, è tutt'altro che chiusa per Trump, resta molto aperta, e i democratici, questo dicevano, sì, dicevano questi due analisti politici democratici, e la partita, i democratici non si devono illudere che è chiusa. Che cosa significa? Che serve ancora del tempo per valutare bene le cose. Io ricordo nel 2016 che i sondaggi davano vincente carrozza la Hillary Clinton, e poi abbiamo visto come, certo, così, certo, così non è andato. Uno può dire ma nel voto popolare, il voto popolare non è che si invoca quando conviene, il voto popolare c'è, poi il sistema americano è quello dell'Electoral College, che è un'altra cosa, non c'è dubbio, e non c'è dubbio. Quindi Trump secondo me ha ancora delle carte da giocare, non è il favorito in questo momento, questo sono pochi dubbi. La voce che state ascoltando è quella di Mario Secchi, attento osservatore delle vicende statunitensi, dirige AGI, Agenzia Giornalistica Italia. Mario, sono arrivati due messaggi adesso al volo, al 349-238-6666, che ti sottopongo e che in qualche modo esprimono la doppia anima anche del pubblico italiano rispetto alle vicende statunitensi. Il primo: purtroppo l'unica forza di Biden è non essere Trump, e questo lo trovo veramente molto molto significativo, spietato ma significativo. Sleepy Biden, mi sembra che l'ascoltatore si accodi allo slogan coniato da Trump. Poi un altro ascoltatore che con un po' di livore scrive: come vi rode e vi spaventa Trump, pronto a smantellare il Deep State. Faziosi e terrorizzati, Trump vince, rassegnatevi. Mario, ho la sensazione che, e mi capita molto spesso, non appena nomino Trump, partono questa serie di messaggi molto emotivi, come se, come dire, Trump fosse contro tutti e contro l'informazione. Tu che sensazione hai? Chi è che ha impostato questa narrativa così antagonista? Siamo stati noi a sbagliare quando ci siamo, come dire, seduti su quei sondaggi che davano la Clinton vincitrice, per esempio? O è anche Trump che alza i toni e con la classe giornalistica qualche problema di relazione ce l'ha? Ma intanto a Trump la polarizzazione conviene, no? Quindi lui, certo, lui la cerca, fa il suo lavoro, sì. Lui pompa questa situazione, diciamo così. L'altra è che c'è un vizio di forma e di sostanza nel mondo dei media. Guardate la catena di prese di posizione che sta avvenendo nel mondo intellettuale americano, liberal, segnalo, sì, liberal, nei confronti del pensiero a una dimensione del nuovo movimento di giustizia sociale, chiamiamolo così. Sì. L'ultima, una delle più importanti figure, adesso mi sfugge il nome, mannaggia a me, del New York Times, ha pubblicato una lettera di dimissioni, sì, sì, veloce e devo dire anche bellissima, dove sostanzialmente si dice che il direttore del New York Times è Twitter, la bolla di Twitter, aggiungo, e quindi qualsiasi dissent opinion, qualsiasi visione del mondo che non sia quella dei liberal, che non sia quella in questo momento della questione razziale posta, certo, come un diktat, cioè, sì, se non sei con noi sei un razzista, per essere molto, sì, chiari, sì, che tra l'altro è l'oggetto dell'ultima copertina dell'Economist, chiaro, sì, una serie di servizi molto interessanti su ciò che non va questa impostazione ideologica. Ebbene, tutto questo dimostra che c'è un vizio di fondo che nel 2016 non consentì di capire Trump e di vedere la sua imminente vittoria, sì, e che nel 2020 rischia di far fare dei passi falsi ancora nella valutazione generale. Sì. Trump poi di per sé è un personaggio che divide, è odio e amore, sì, ovviamente, no? E questo facilita, ovviamente, innesca un'ulteriore radicalizzazione del dibattito. Come sempre bisogna essere molto equilibrati, sì, bisogna ponderare i fatti, bisogna vedere e ricordare che cosa è l'America. L'America non è New York, San Francisco, non c'è dubbio, non è Boston. L'America è Kansas City, l'America è il Missouri, l'America è l'Ohio, l'America è il Wisconsin, l'America sono intere distese praterie di, sì, girasoli, cioè, bisogna darci l'America. Questo è un atto d'amore, direttore, che stai facendo, colgo una nota elegiaca nel tuo commento. L'America non è il grattacielo, l'America, sì, è il ranch, sì, forse questo non è ancora chiaro a moltissimi. L'America è la cintura dell'industria americana del nord, è la pancia, appunto, cosiddetta, di un continente vastissimo, variegato. Sono stati profondamente diversi l'uno dall'altro, con amministrazioni diverse, sono swing states, cioè sono luoghi che passano da un'amministrazione dal blu al rosso continuamente. Pensate solo alla complessità di uno stato come la Florida. Certo. L'America sono gli ispanici, l'America sono i neri, l'America sono, è la comunità italiana, l'America è la comunità irlandese, l'America è la comunità classica WASP. È complessa, non è facilmente catalogabile come tutti pensano. Poi, se si vuole ridurre il discorso a Trump, anti-Trump, si può fare. Naturalmente impostare, secondo me, la visione, questa assolutamente importantissima per novembre, in questa maniera può condurre poi a degli errori. Trump oggi può perdere. Il problema, o l'opportunità, sì, dipende da come la si vede, è che può anche vincere. Certo, e lo ha dimostrato anche in passato. Grazie mille, Mario Sechi, direttore di Agi, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Mario, a presto. Ciao a tutti. Allora, peraltro, la figura a cui faceva riferimento, prestigiosa firma del New York Times, direttrice della sezione opinioni del quotidiano newyorkese, Bari Ice, appunto, che si è dimessa. Torneremo su questo tema, perché è una valenza culturale molto molto importante che non vogliamo assolutamente scansare per una qualche forma di autocensura. Tanti messaggi al 349-238-6666. Torneremo sulla questione Stati Uniti e Trump, perché vedo che scalda parecchio gli animi e i polpastrelli. Adesso però una piccola pausa, la viabilità e poi tocca andare in Libia ancora una volta. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun luogo è lontano vi porta in Libia, ma per portarvi in Libia vi devo prima raccontare una storia che inizia al numero 61 di Prinzengrandstrasse a Monaco di Baviera. Sì, perché lì sorge una grande villa, tanto austera all'esterno quanto sontuosa all'interno. Il proprietario si chiama Jan Marsalek, all'epoca dei fatti ha 38 anni e anche se è di origine austriaca è uno dei giovani finanzieri più importanti di tutta la Germania. Marsalek è il direttore operativo di Wirecard, la più importante società di fintech del paese, un'azienda talmente di successo da essere entrata nel DAX 30 della Borsa di Francoforte, il listino delle 30 società più quotate. In una sera non meglio precisata del 2018, Marsalek apre le porte della sua villa, che si trovano proprio di fronte al consolato russo di Monaco, a un gruppo selezionato di politici e diplomatici austriaci. Lo scopo ufficiale della serata è di discutere possibili soluzioni umanitarie alla crisi libica. In realtà, secondo un'inchiesta condotta dal Financial Times, Marsalek sta cercando solo di dare una patina umanitaria alla sua vera attività: reclutare gruppi di mercenari e milizie locali per prendere il controllo delle frontiere libiche e bloccare flussi migratori. Ma secondo il Financial Times, questa non è l'unica attività pericolosa nella quale il direttore operativo di Wirecard è impegnato. Dai rapporti con Andrei Ciurpigin, uomo del GRU, l'agenzia dei servizi segreti russi, a quelli con l'FPO, partito di estrema destra austriaco, al quale avrebbe passato dei file riservati ottenuti proprio dai russi. Circa un mese fa esplode lo scandalo Wirecard. La società che Marsalek dirigeva, il gioiellino della borsa tedesca, era in realtà un castello di carte con un buco da quasi 2 miliardi di euro. La sede dell'azienda viene perquisita, i vertici messi sotto inchiesta e l'amministratore delegato Marcus Braun viene arrestato. E Ian Marsalek che fine ha fatto? Beh, semplicemente è sparito. Secondo l'inchiesta del Financial Times potrebbe essere nelle Filippine o forse essere fuggito in Cina. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo è Lontano, a Matteo Civillini, giornalista investigativo, fa parte del consorzio IRP e si è occupato del caso Wirecard. Matteo, buongiorno, ben ritrovato. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Matteo, l'importanza di questo caso, che come vediamo è transnazionale per natura, quanto ha scosso, se lo ha fatto, l'opinione pubblica tedesca? È un caso importantissimo, è stato uno scandalo contabile enorme che ha scosso in modo significativo l'opinione pubblica tedesca, perché Wirecard era una favola per la Germania, ovvero quella di avere un'azienda fintech che potesse competere sul palcoscenico globale, ed è stata portata sul palmo di mano dagli investitori in Germania e dall'opinione pubblica in generale. Questa favola è venuta a una fine catastrofica, disastrosa, come raccontava la tua introduzione, con la comparsa di questo scandalo contabile, questi 1,9 miliardi di euro che sono spariti misteriosamente dal fatturato dell'azienda. Sì. Il problema, Matteo Civillini, è che questo scandalo finanziario diventa uno scandalo finanziario, economico e volendo anche militare, perché ci porta direttamente in Libia, c'è odore di Russia, c'è odore di mercenari. E allora, quando dici Libia, dici Arturo Varvelli, direttore dell'ufficio di Roma dell'European Council on Foreign Relations. Arturo, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano. Buongiorno a voi. Questo pezzone, questa inchiesta incredibile del Financial Times riaccende i riflettori sulla Libia, ci fa capire ancora una volta quanto sia terreno di scontro di forze oscure. Noi cerchiamo di accendere i riflettori, ma sembra sempre che qualche oscura entità riesca a sfuggire, no? Ai nostri fari, alle nostre luci. Siamo quasi in chiusura, per cui ho una domanda unica per te, Arturo, ed è una parola sola, che è Sirte. Al-Sisi ha detto sono pronto a entrare in Libia. La battaglia per Sirte pare essersi congelata. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Esploderà quella linea del fronte o si congela tutto, secondo te? Beh, mi vuoi mettere in imbarazzo, insomma, con questa domanda, perché naturalmente è molto difficile, però accetto la sfida. Io non credo che si arriverà a uno scontro, perlomeno non uno scontro diretto, perché tutta la storia della Libia, diciamo, post-Gheddafi, non è mai una storia di scontro diretto tra le varie potenze, ma indiretto. E io non penso, non che sia meno pericoloso ciò, ti ho detto. Sì. Però io non penso che l'Egitto voglia mettersi in prima linea. Mm. Potrebbe essere naturalmente molto pericoloso per la stessa leadership di Al-Sisi. Certo. Un paese che certamente è una potenza, perché l'Egitto è una potenza economica, demografica, di riferimento culturale per tutto il Medio Oriente, ma che ha delle enormi difficoltà sul piano militare. Sì. E pensiamo che non riesce a controllare ad esempio una parte del proprio territorio come il Sinai. Assolutamente. Quindi io non assolutamente. Me la vedo affrontare a viso aperto la Turchia, che invece ha negli ultimi 10 anni sperimentato sul terreno, soprattutto in Siria, ma anche i propri confini in generale, una capacità militare superiore. In sostanza, guerra di parole, quello di Fatah al-Sisi ci ha abituato a toni roboanti, vedremo se prenderanno corpo. Secondo Arturo Varvelli, lo ricordo, dirige l'European Council on Foreign Relations di Roma, per il momento parole al vento e la popolazione di Sirte evidentemente spera la stessa cosa. Siamo quasi in chiusura, io ho un po' ridotto questa pagina per ovvi motivi, per cui chiedo perdono ai miei due ospiti, Matteo Civillini e Arturo Varvelli, ma prometto a Civillini di ritornare su questo caso incredibile Wirecard, di cui lui si è occupato in prima persona, perché è un filo intanto mi segnalano in realtà che abbiamo qualche minutino in più, un minutino in più, è un filo rosso che lega la Germania e la finanza oscura alla Libia. Allora approfitto di questo tempo in più che mi viene dato, Civillini, è caduto Civillini, e allora non posso approfittare di questo minuto, allora con grandissima calma, Arturo Varvelli, stai con noi perché dobbiamo ascoltare gli ordini di Valeria Bernardi.